Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Conobbi anche la moglie del vetturino Manes. Si alzava di solito una mezz'ora circa dopo di lui e mi invitava a prendere il tè. Lo bevevo nella cucina tinta d'azzurro, davanti al grande samovar di latta stagnata, mentre Manes mangiava rafano grattugiato, cetrioli, pane e cipolla. L'odore era acuto, ma familiare, quasi come di casa, sebbene io non avessi mai fatto una colazione del genere. Il fatto è che allora mi piaceva tutto. Ero giovane, e con ciò è detto tutto. Mi piaceva perfino la moglie del mio amico Manes, sebbene fosse una di quelle donne che comunemente si definiscono brutte, perché era rossa di capelli, piena di lentiggini, e rassomigliava a un seme rinzuppato. Pure, e nonostante le dita grasse, aveva un modo appetitoso di versare il tè, di preparare la colazione a suo marito. Gli aveva partorito 3 figli. 2 erano morti di vaiolo. Qualche volta parlava dei figli morti come se fossero ancora in vita. Era come se per lei non ci fosse alcuna differenza fra i figli che aveva nella tomba e quello che se n'era andato al conservatorio di Vienna e che per lei doveva essere come morto, perché comunque era uscito dalla sua vita. Vivo, in ogni modo e ognora presente, era però per lei mio cugino, il caldarostaio. A questo proposito io feci ogni specie di congetture. In capo a una settimana mio cugino Josef Branko Trotta doveva arrivare. E in capo a una settimana, infatti, arrivò. Arrivò col suo mulo, col suo sacco di cuoio, con le sue castagne. Abbronzato, nero e gaio, era proprio come l'avevo visto l'ultima volta a Vienna. Era chiaro che gli pareva naturale incontrarmi di nuovo qui. Ancora non era cominciata la vera stagione delle caldarroste. Mio cugino era venuto un paio di settimane prima semplicemente per riguardo a me. Per strada, dalla stazione alla città, sedette a cassetta a fianco del nostro amico Manes Reisiger. Il mulo l'avevano legato dietro al fiacchere con una fune della cavezza. Il sacco di cuoio, il forno, le castagne erano agganciati ai 2 lati della carrozza. Facemmo dunque il nostro ingresso nella cittadina di Zlotogrod, ma non destammo alcun interesse. A Zlotogrod erano abituati a vedere apparire un anno sì e un anno no mio cugino Josef Branko. E anche a me, allo straniero smarritosi da quelle parti, sembrava si fossero già abituati. Il nostro ingresso nella cittadina non sollevò dunque alcun interesse. Mio cugino Josef Branko prese alloggio, come al solito, in casa di Manes Reisiger. Memore dei buoni affari che l'estate dell'anno avanti aveva fatto con la catena e l'orologio, mi aveva portato ancora un paio di coserelle folcloristiche. Per esempio, un portacenere d'argento sbalzato sul quale erano visibili 2 pugnali incrociati e il vecchio San Nicodemo, che con essi non aveva niente a che fare. Un boccale d'ottone, che mi parve odorare di lievito, un cucù di legno dipinto. Tutte queste cose, così disse Josef Branko, le aveva portate per regalarmele nel caso io fossi in grado di rimborsargli le spese di trasporto. E io capii che cosa intendeva per spese di trasporto. Gli comprai il portacenere, il boccale e il cucù di legno la sera stessa del suo arrivo. Era felice. Per ingannare il tempo, come dava a intendere, ma in realtà per approfittare di ogni occasione che potesse fruttargli un po' di denaro, tentava di tanto in tanto di persuadere il vetturino Manes che lui, Josef Branko, era un esperto cocchiere, migliore di Manes, e anche più abile di lui a trovare clienti. Ma Reisiger non voleva saperne di discorsi del genere. La mattina presto attaccava da sé i suoi cavalli bianchi alla carrozza e senza curarsi di Josef Branko andava alla stazione e in piazza del mercato, dove posteggiavano i suoi colleghi, gli altri vetturini. Era una bella estate piena di sole. E Zlotogrod non era una cittadina vera e propria, perché più che una cittadina assomigliava a un villaggio camuffato, in cui il fresco respiro della natura si spandeva dovunque, a tal segno che i boschi, le paludi, le colline che la circondavano sembravano quasi assediare la piazza del mercato, tanto da far credere che bosche, palude e collina potessero, da un momento all'altro, farvi il loro ingresso, con altrettanta naturalezza di un viaggiatore di passaggio che venisse dalla stazione per scendere all'albergo dell'Orso d'Oro. Eppure, nonostante tutto ciò, ai miei amici, tanto i funzionari della sottoprefettura quanto i signori del Nono Dragoni, sembrava che Zlotogrod fosse proprio una vera città. Avevano bisogno della consapevolezza di non essere esiliati in luoghi sperduti, e il solo fatto che esistesse la stazione ferroviaria di Zlotogrod procurava loro la sicura sensazione di non vivere ai margini di quella civiltà nella quale erano cresciuti e dalla quale erano stati viziati. Fingevano di conseguenza di essere costretti, un paio di volte alla settimana, a partirsi dalla cosiddetta aria malsana della città per andare in carrozza a trovare quei boschi, paludi e colline che in realtà venivano loro incontro. Giacché Zlotogrod non solo era piena di verde, ma addirittura anche assediata dai suoi dintorni. Capitava dunque che un paio di volte alla settimana facessi, insieme ai miei amici, una gita nei cosiddetti dintorni di Zlotogrod, col fiacchere di Manes Reisiger, perché di gite, infatti, si parlava. Spesso facevamo sosta alla taverna di confine di Jadlovker. Il vecchio Jadlovker, un ebreo antichissimo dalla barba d'argento, sedeva rigido e mezzo paralizzato davanti all'immenso portone ad arco dai battenti color verde prato. Somigliava a un inverno che ancora voglia godere gli ultimi bei giorni dell'autunno e portarseli via, in quell'eternità così vicina nella quale non esistono più stagioni. Non sentiva nulla, non capiva una parola, era sordo come una campana, ma dai suoi grandi occhi neri e tristi mi parve di intendere che egli in qualche modo vedesse tutto quello che i più giovani sentivano solo con gli orecchi, e che perciò fosse, per così dire, sordo di sua volontà e per suo sommo diletto. L'estate di San Martino passava su di lui sommessa e tenera nell'aria. L'argenteo, ma pur sempre tiepido sole autunnale, inondava di luce il vecchio, che sedeva in faccia all'occidente, che era in attesa della sera e del tramonto, indizi terreni della morte, quasi aspettasse che l'eternità, alla quale quanto prima era destinato, venisse a lui, invece di andarle lui incontro. Instancabili stridevano i grilli, instancabili gracidavano le rane. Una grande pace regnava in questo mondo, l'acerba pace dell'autunno. Verso quell'epoca, mio cugino Josef Branko, fedele a una vecchia tradizione dei caldarostai della monarchia austro-ungarica, usava drizzare il suo banco sulla piazza di Zlotogrod. Per due giorni tutta la piccola cittadina continuò a essere invasa dal caldo odore dolciastro delle mele al forno. Cominciò a piovere. Era un giovedì. Il giorno dopo, venerdì dunque, a tutti gli angoli delle strade era già affisso il proclama. Era il proclama del nostro vecchio imperatore Francesco Giuseppe e diceva: «Ai miei popoli». Thank you. Io ero alfiere della riserva. Neanche 2 anni prima avevo lasciato il mio battaglione, il 21° cacciatori. Mi parve allora che la guerra venisse più che a proposito. Nel momento in cui fu lì, inevitabile davanti a me, capii subito, e credo che anche tutti i miei amici l'avessero capito all'istante come me, che perfino una morte assurda era preferibile a una vita assurda. Avevo paura della morte, questo è certo. Io non volevo restare ucciso. Volevo unicamente acquistarmi la sicurezza di poter morire. Mio cugino Josef Branko e il suo amico, il vetturino Manes, erano tutti e due della riserva. Anche loro dovevano dunque rientrare in servizio. La sera di quel venerdì in cui era stato affisso ai muri il proclama dell'imperatore, andai come al solito al circolo degli ufficiali per cenare con i miei amici del nono dragoni. Non riuscivo a spiegarmi il loro appetito, né il loro usuale buon umore, né la loro stolta indifferenza all'ordine di marcia su Radzivilov, località a nord-est sul confine russo. Ero l'unico fra loro che riconoscesse già i sintomi della morte nelle loro facce inoffensive, persino liete, in ogni caso per nulla turbate. Era come se si trovassero in quella specie di stato euforico di cui tanto sovente beneficiano i moribondi, un prodromo della morte. E sebbene sedessero a tavola ancora vivi e vegeti e bevessero grappa e birra, e sebbene io fingessi di prender parte ai loro stupidi scherzi, pure avevo l'impressione di essere come un medico o un infermiere che vede morire il suo paziente e si rallegra che il moribondo non sappia ancora nulla della morte imminente. E tuttavia, alla lunga, cominciai a sentire un malessere quale forse devono provare anche tanti e tanti medici e infermieri posti di fronte alla morte e all'euforia del moribondo, in quel momento, cioè, in cui potrebbero chiedersi se non è meglio annunciare al morituro la sua prossima fine, piuttosto che accogliere come propizia la circostanza che questi se ne vada senza sospettare nulla. Mi affrettai a lasciare i signori del nono dragoni e mi incamminai verso la casa di Manes, il vetturino, dal quale, come ho già detto, abitava mio cugino Josef Branko. Com'erano diversi loro due, e che bene mi fecero dopo quella serata al circolo ufficiali del nono dragoni. Forse erano le candele rituali che ardevano nella stanza tinta in azzurro del vetturino ebreo Manes, che ardevano incontro alla propria morte quasi in allegria, comunque risolute e sicure. 3 candele giallo-oro infilate in bottiglie di birra verdi, perché il vetturino Manes era troppo povero per comprarsi anche dei semplici candelieri d'ottone. Ormai non erano che mozziconi di candela, e a me sembravano simboleggiare la fine del mondo, che io sapevo cominciava ora a compiersi. Candida era la tovaglia, le bottiglie di quel verdone vilissimo che sembra dichiarare in anticipo, con plebea insolenza, la simpatica grossolanità del proprio contenuto appena bevibile, e giallo oro i mozziconi moribondi. Le fiammelle vacillavano, gettavano una luce inquieta sulla tavola e generavano ombre altrettanto inquiete che vacillavano sulle pareti tinte in azzurro scuro. A capotavola sedeva Manes, il vetturino, non più nella sua tenuta usuale da vetturino, non più nella sua pelliccia di montone con la cinghia in vita e il berretto di reps, bensì con una giacca d'alpaca piuttosto lunga e uno zoccottino nero di felpa in testa. Mio cugino Josef Branco portava la sua solita frusta giubba di cuoio e, per rispetto verso il suo ospite ebreo, il cappelluccio verde tirolese in testa. Da qualche parte cantava stridulo un grillo domestico. «Ora noi tutti dobbiamo prendere commiato», cominciò Manes il vetturino. E con molta più preveggenza dei miei amici del nono Dragoni, eppure pervaso da una grande equanimità, vorrei quasi dire nobilitato, proprio come dalla morte che nobilita ogni uomo pronto a riceverla degnamente, proseguì: «Sarà una grande guerra, lunga, e non si può sapere chi di noi tre ritornerà. Per l'ultima volta io siedo qui accanto a mia moglie, davanti alla mensa del venerdì sera, davanti ai ceri del sabbat. Prendiamo degno commiato, amici miei, tu, Branco, e lei, signore». E per solennizzare un commiato veramente degno, decidemmo di andare alla taverna di confine di Jadrovec, tutti e tre. Thank you. Luciano Virgilio ha letto La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Giovanni Pallanti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it